quando un giorno tu mi chiesi cosa vedi, tu lì non c'eri, io vedevo uccelli neri. Rispetto chi sono, non rispetto ciò che vivo. Odio chi odia, ma non odio chi è vero. Sono solo diverso, odio anche te, il mio universo. Se le parole fossero petali, camminerebbero con il vento. Se il mio cuore fosse davvero rosso, non starei cantando adesso. Che uomo sei? Tu mi domandi. Scusa, ma non riconosco gli sguardi del buono. Cosa ti piace?